dapprima un grande frastuono. La lezione è imparata a memoria, poi la venuta dell'uomo, è nata del mondo la storia. Ogni forza del bene e del male, conosciuta col nome di un Dio, l'ignoranza era spesso fatale, al mortale rimaneva l'oblio. Patire per colpe inventate, che senso è il nostro cammino? Se la mela e la donna son state la condanna, questo destino. Tutti uguali è solo finzione, non per tutti è amaro l'inverno. Sa di antico questa sanzione, a chi non ha niente diamo l'inferno. Dio dei poveri per troppo amore, ai potenti sputò la sua voce. Da mortale ignorando il dolore, pagò con la vita sulla croce. Siamo nati per un'ora d'amore, forse questo c'era stato promesso. Puoi capire con molto stupore che siamo al mondo per squallido sesso.